Dalla facoltà di scienze fluidiche alla Sapienza, dall'orchestra mattina abbiamo assistito ad un'apparizione qua tra il corridoio di scienze fluidiche, che passa infatti sempre cario, facendo miracoli. Ha infatti condiviso più di 200 CD carichi di software scientifici piratati, libri di testo, manuali di scienze politiche scannerizzati, piratati e condivisi, oltre che a un sacco di MP3. Il clima è stato gioioso. Tutti gli studenti, almeno tantissimi studenti, hanno accolto con gioia, felicità e pure stupore insomma la venuta di questo santo, con una distribuzione di santini ed una preghiera che è stata recitata collettivamente, la preghiera del cognitario, di colui che produce saperi, vuole condividere MP3, vuole mettersi in sharing, non vuole assolutamente copyright. Quindi una giornata assolutamente importante che si lega anche con poi tutte quelle altre giornate e iniziative che l'Italia si faranno in questo weekend, che chiaramente è Tutti Santi. Roma abbiamo un po' anticipato la giornata di Tutti Santi, ma penso che in altre città saranno cose altrettanto importanti, altrettanto divertenti. Questo anche per rilanciare la manifestazione del 6 su Rave, che si terrà a Roma. Crediamo che sempre caro riapparirà un'altra volta con la stessa preghiera, con la preghiera dei cognitari, con la preghiera di coloro che non vogliono copyright, ma vogliono libera copia, libera circolazione, libera condivisione dei saperi e della gioia. Insieme a sempre caro oggi è apparsa anche l'immacolata riappropriazione di reddito tramite appunto la condivisione e il pirataggio. Questo per dimostrare anche come la nostra, la vita dei precari è quotidianamente gestita tra illegale e legale. Che cos'è illegale? Forse illegale fotocopiare dei libri di testo, e forse è illegale cacciare i militari quando vengono a fare lezioni e diffondere saperi armati all'università. Vogliamo provare a mettere in crisi questi meccanismi di controllo e di governance soggettiva della nostra cooperazione. Per questo sempre cario appare, per questo sempre cario diventa pirata e distribuisce gratuitamente saperi. Di tutti i suoi fedeli naturalmente.